si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funky up, uptown funky up, 'cause uptown funk don't give it to you, 'cause uptown funk don't give it to you, don't believe me, just watch. Buongiorno ascoltatori di Radio 24, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Quando sono le 8:34 minuti, torna Si può fare in onda fino alle 10, in vostra compagnia, 800 24 00 24. Oggi, caro Carlo, Milano Monterosa, neanche a dirlo, perché diluvia un po' in tutto il nord, credo. Ci avevano un ritorno un po' dell'inverno. Esatto. Sì. E questo weekend è stato terribile, anche nei meteorologi scatenati, perché Milano, finalmente succede qualcosa, non succede mai niente, invece sta succedendo qualcosa. Ma soprattutto si abbassano i PM10, bravo, perché come tu mi hai insegnato, io non posso dire porca miseria che schifo che piove, devo solamente dire che bello che piove, perché così si abbassa l'inquinamento, i PM10, meno smog, poi va bene anche per la campagna, siamo tutti felici. Si può andare in giro in bici, però ci si bagna, si può andare in giro con i passeggini, però i bambini i passeggini si riempiono d'acqua, quindi. A proposito di questo, perché insomma dopo le emergenze non è stato fatto sostanzialmente nulla, meno male che piove, ma le città sono ancora alle prese con lo sforamento delle polveri sottili. Noi siamo andati a cercare una iniziativa originalissima in una città italiana che è interessante, fa discutere, tra poco ve la racconteremo. E poi è un'app, e quando si parla di app bisogna avvisare la domenica mattina, come uno di solito dice, speriamo che sia qualcosa di più cartaceo. Perché dici questo? Ma così che per l'età media del nostro ascoltatore, non ma parlo di me, figurati, io ho difficoltà spesso a scaricare una app, ho paura che poi se la scarico me ne si cancella un'altra, poi non so se mi rimane per sempre, devo pagare, mi succhia dalla carta di credito. E poi naturalmente, cari ascoltatori, cerchiamo un personaggio della settimana. All'800 24 00 24 il primo indizio che vi andiamo a dare è questo. Oggi è questo, e il personaggio non è un cervello in fuga. Perfetto. Indizio diverso dal solito, quindi sono contento. Decantare. Di solito era molto più generico, invece oggi direi che siamo già più... Pensate, non è un cervello in fuga. 800 24 00 24. Tra poco iniziamo, anzi subito andiamo a iniziare con il riepilogo delle notizie di questa settimana. Vai. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Che poi il riepilogo non è, nel senso che cerchiamo alcune notizie più importanti di questa settimana e ci agganciamo dove è possibile per andare a raccontare qualcosa di questa Italia che funziona, che ce la fa. Ah, non potevamo non partire da questa notizia qua. Non dico niente, sentitevi l'audio di Renzi. So che non ci vedrete, ma il 22 dicembre inauguriamo la Salerno-Reggio Calabria, tenetevi forti. E a tutti quelli che hanno fatto saremo costretti a fare un pezzo da Salerno-Reggio Calabria, guido io, così anche se la strada va bene vi sentirete male lo stesso. Battute a parte, non si sa se ridere o se piangere. Va questa ricordato... è l'Italia del 2016. Sì, va anche ricordato che Renzi stava parlando a una conferenza stampa della stampa estera, sì. Che quindi diciamo la risata ci fa ancora più male, perché sì, è come se fosse la barzelletta del mondo. Ormai lo sanno anche i giornalisti della stampa estera. Esattamente, quindi vabbè, io non commento. Allora, andiamoci con Crozza e poi con Domenico De Masi, poi vi spieghiamo perché. Vai con Crozza. E voglio chiudere con una buona notizia, perché il 22 dicembre inaugureremo la Salerno Agrigento. Lo so, avrebbe dovuto fermarsi a Reggio Calabria, ma Angelino ha insistito per arrivare fino a casa dei suoi. Vabbè, fin qua Crozza. Adesso vi facciamo invece sentire Domenico De Masi, per chi non ci avesse ascoltato ieri, il sociologo De Masi, che ai nostri microfoni parlavamo della svolta del lavoro agile, il lavoro da casa e il lavoro con orari flessibili annunciata questa settimana dalla Barilla, che noi abbiamo salutato come una buona notizia. Lui ci ha gelato un po' e ha detto che il telelavoro si parla dagli anni 60. È un po' come la Salerno-Reggio Calabria. L'annuncio della Barilla sì, si è avvenuto lo stesso giorno in cui Renzi ha annunziato l'inaugurazione della Salerno-Reggio Calabria. Sì, della Salerno-Reggio Calabria. Lo sapevo che andava a accadere. Però, ecco. La Salerno-Reggio Calabria è iniziata nel 1964. Quindi se la giocano, se la giocano, il lavoro agile, il telelavoro. Sono bufale coeve. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, pedala, insegui la tua storia ovunque vada, pedala, macina chilometri di strada, pedala, l'hai voluta tu la bicicletta, pedala, più in fretta, pedala, e allora, sulle note di Frankie High Energy, pedala, che noi ci piace sempre moltissimo, addirittura per pensiamo quasi che sia una canzone scritta un po' per noi, perché sì, da quando andò a Sanremo, per noi quando si parla di pedalare sarebbe un onore che l'avesse scritta per noi. 2014, Frankie High Energy. E riprendiamo da lì, insomma, mentre il presidente del Consiglio Matteo Renzi annuncia tra le risate della stampa internazionale l'inaugurazione della Salerno-Reggio Calabria, però in realtà questa è realtà, tante altre piccole cose si muovono nell'ambito della mobilità alternativa. Per esempio, arriva WeCity, l'app che ti premia se vai in bicicletta e non usi l'auto, vince chi produce meno CO2. È con noi il responsabile del progetto WeCity, Paolo Ferri. Buongiorno e buona domenica. Ciao, buongiorno, buona domenica a tutti. Ciao, buongiorno. Paolo, una invenzione di un gruppo di ingegneri dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Tra l'altro, complimenti. Grazie. Perché è un'idea molto originale e insomma va a colmare come dire, un vuoto, una nicchia, che cioè una nicchia, alla faccia sia una nicchia, una questione importante come questa, perché io l'ho detto prima annunciando la notizia, passate le emergenze, gli sforamenti delle PM10, le riunioni del governo con i capi delle regioni, i sindaci che annunciano, poi se non piove, come succede oggi al nord, sappiamo che le città sono sempre nella solita condizione. Se non fosse che qualcuno si muove, per esempio voi, come funziona questa idea, Paolo? Sì, allora noi siamo partiti dall'idea che chi si sposta in maniera sostenibile merita un premio. Per cui la cosa vale per la bicicletta, ma vale anche per chi si sposta a piedi, per chi prende mezzi pubblici e per chi condivide l'auto. Si merita un premio perché magari è disposto a prendere la bicicletta in un mondo di automobili, perché è disposto a spostarsi a piedi quando magari la tendenza sarebbe fare anche solo 500 metri con la macchina. Quindi sono tutte modalità di spostamento che determinano delle minori emissioni di CO2 rispetto appunto alla media. E quindi appunto ci vuole un premio. Se mi permetti di aggiungere una cosa, si merita un premio anche perché chi si muove in questi modi alternativi in realtà fa risparmiare la collettività, quindi proprio la parola merito è proprio giusta, o sbaglio? Meno spazio. Infatti noi di solito diciamo che quando sei in coda bloccato nel traffico, non sei bloccato nel traffico, tu formi parte del certo, traffico. Certo, no? Tu sei il traffico, tu sei parte del problema. Bella questa rivoluzione copernicana nell'osservazione del traffico, non è male questa. E quindi insomma da lì abbiamo pensato che ci si poteva costruire proprio una moneta sopra, no? Cercare di monetizzare questi spostamenti a minor impatto ambientale. Per cui usando WeCity l'utente che si sposta in maniera sostenibile accumula dei crediti, che sono crediti di CO2 evitata, che poi possono essere utilizzati sempre nell'applicazione per ottenere dei premi, degli sconti, sì, dei regali. E quindi poi la sfida è stata proprio quella di capire se diciamo nel mondo imprenditoriale che si occupa della mobilità c'era qualcuno disposto a metterli a disposizione questi premi, perché noi avevamo questo punto. Ecco, questo mi sembra un punto importante, Paolo, perché immagino già i nostri ascoltatori, quando sentono parlare di premi, incentivi, sconti, aiuti ai ciclisti, pensano che paga, pago io, paga Pantalone. No, ecco, qui non c'è niente di fondi pubblici, il cittadino non paga niente, perché il meccanismo è virtuoso anche da questo punto di vista. Ce lo racconti? Certo, allora, se io sono un'azienda e produco qualcosa relativo alla mobilità sostenibile, come possono essere, che ne so, biciclette pieghevoli, ma posso essere, che ne so, un'azienda dei trasporti e quindi ho a disposizione degli abbonamenti per i trasporti pubblici, o sono comunque un'azienda, come posso dire, attenta all'ecologia, che ho una coscienza di tipo ambientale, e sono interessato a raggiungere la base utenti WeCity, la community WeCity, posso mettere a disposizione dei premi, degli sconti. E noi siamo rimasti veramente sorpresi, perché di aziende di questo tipo ce ne sono veramente tantissime. Cioè, c'è stato un interesse per questa forma di proposta, che è una, come posso dire, non è più neanche una pubblicità, no? Diventa un'alleanza tra il consumatore in maniera sostenibile e l'azienda che ha un prodotto e vuole, diciamo, entrare in quel mercato e farsi vedere da quel tipo di prodotto. Certo, l'azienda stessa diventa testimonial, si mette in prima linea, in primo piano, no? E lo fa però con uno sconto sul suo prodotto, quindi mettendoci, diciamo, del suo, viene certo percepito, esatto, come un vero e proprio alleato dell'utente in una sfida congiunta, no? Che è quella di cambiare un po', di cercare di cambiare un po' la mobilità come la conosciamo adesso. Mm. Paolo, sì, resta con noi un attimo, perché dobbiamo fare, manco a farla apposta, le informazioni sulle strade, sul traffico ciclistico, ovviamente, visto che sei in collegamento con noi. E poi torniamo, perché dobbiamo fare anche un grande appello affinché si faccia una grande pubblicità a questa iniziativa, che il comune, la regione, la provincia, che non c'è più, qualcuno sostenga questa iniziativa, perché è un'iniziativa che potrebbe funzionare molto bella, ma il rischio è che rimanga lì nella nicchia, nella piccola nicchia dei ciclisti, dei super appassionati, eccetera, eccetera. Invece ci piacerebbe che questa cosa arrivasse proprio a tutti. Traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti. Allora, eccoci qua di nuovo, buongiorno ad Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. Insieme a Paolo Ferri, responsabile del progetto WeCity a Reggio Emilia. Che io sappia, una iniziativa del genere è stata sperimentata, una app che premia chi non utilizza l'auto, anche a Palermo, tra gli studenti universitari di quella città, ad opera di un gruppo di creativi che si chiama Push, ma era proprio un'iniziativa anche questa molto sperimentale. Qua a Reggio Emilia, Modena, Reggio Emilia, si fa sul serio. Volevo chiederti una cosa, scusa, siccome sono pigro o forse anche semplicemente perché sono italiano, appena ho visto questa app mi sono messo a leggere, la mia prima domanda è stata: ma io gli dico che prendo la bicicletta e in realtà vado con un altro mezzo, così guadagno più punti e ho più sconti. Invece ovviamente ho visto che voi siete più intelligenti di me, che sono stupido, e in realtà è proprio questo che c'è dentro nella app, ovvero un algoritmo che capisce come mi sto spostando, è giusto? E come fa? Sì, questo diciamo era uno degli elementi fondamentali che abbiamo dovuto inserire. Cioè, evitare che io vi rubassi dei punti. Certo. Esatto, siccome si va proprio a monetizzare il risparmio determinato all'utente, è importante, come posso dire, cercare di ridurre al minimo, no, queste possibilità che tu hai ben descritto. Diciamo, l'applicazione usa un algoritmo che sfrutta il segnale GPS, gli accelerometri del telefono, per determinare quello che chiamiamo un pattern di spostamento, quindi diciamo, se io gli dico che sto andando in bicicletta e invece vado in macchina, l'applicazione se ne rende conto e non mi assegna punti. A meno che non... No, ma volevo capire, io volevo qua, volevo arrivare. Ci sono delle punizioni? Cioè, se uno ti dice che sta andando in bicicletta, in realtà è su una Ferrari, beh, sì, io vorrei, non dico l'azzeramento dei punti, però qualche cosa. Cartellino, non so, rosso. Gli si ruba un posacenere, non lo so. Per ora le punizioni corporali non sono previste, abbiamo semplicemente deciso di diciamo, non assegnare punti durante quel viaggio. Giusto. Devo dire però che, diciamo, i tentativi, come posso dire così, di frode, chiamiamoli, no? Non sono poi tanti, perché alla fine i premi sono anche molto legati a quell'ambito, per cui, cioè, se uno dice che va in bici, quando invece va in macchina per vincere una bici pieghevole, certo, allora, giustissimo. No, senti, ma Paolo, era semplicemente per poi venderla su eBay, io senti penso. Paolo, quanti iscritti ci sono al momento sui siti? Allora, noi siamo partiti ad aprile e adesso abbiamo circa un 20.000 utenti. Beh, dai, è un bel risultato nelle maggiori aree urbane italiane. Ma che è un ottimo numero, sbaglio? Beh, noi siamo molto contenti, anche perché non abbiamo ancora le risorse di una grande applicazione, per cui siamo molto contenti dei risultati di questi tre. Ma visto che siete nati tra Modena e Reggio, avete una, come dire, una localizzazione in particolare in quella zona? Qual è la città con più iscritti? No, allora, le città con più iscritti sono Milano e Roma, perché per dimensione... Per una questione numerica, ci sono più persone, certo. Per necessità. Però è vero che a Modena e a Bologna, sì, abbiamo comunque molti iscritti, dato dalla nostra vicinanza. Beh, insomma, io dico, facciamo un grande appello ai comuni, alle regioni, alle province, a chiunque, senza costi aggiuntivi per nessuno, possa fare un po' di pubblicità, inserire questa app in qualche circuito in modo da coinvolgere sempre più persone in un meccanismo virtuoso e anche divertente, che appunto non costa niente a nessuno, ma mette in moto tante belle energie divertenti. Grazie Paolo. Grazie mille. Ricordiamo che l'app si chiama WeCity, giusto? Quindi noi città, esatto, visto che abbiamo sempre un problema con le parole inglesi, e poi sentiremo anche la crusca. Ricordiamo che WeCity, scritto all'inglese WeCity, ovvero noi città. Carlo, ma si può fare? WeCity.it. Ciao Paolo, grazie Carlo, mille. Ma si possono fare le app in italiano, secondo te? O è proibito proprio dalla triade Facebook, i nomi Google, delle Amazon? App, certo che si può. Si potrebbe fare. Però vabbè, sai, tutti, allora, la prossima... ma tutti sperano nel mercato internazionale, perché se tu inventi un'app che in realtà serve solamente a te e a tua zia, però tu speri sempre che a Cupertino vada benissimo, e così tu diventi miliardario, quindi la chiami Wonder Bros. Ah, ho capito, fantastico. Andiamo con gli ascoltatori. Annalisa che ci chiama da Modena, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Bene. Bene, grazie. Lei? Io vi ascolto sempre. Ci avevo provato anche la scorsa settimana, ma mi è andata male, sono arrivata in ritardo. Stavolta ci riprovo, ma non lo so. Sì. Io dicevo Umberto Eco. Ah, il personaggio della settimana, certo, sì, Umberto Eco. Perché mi sembrava doveroso... Sì. Continuare ad omaggiarlo e giustissimo. Si parla di cervelli. Ci sono stati funerali civili a Milano, sì, ma nella giornata di martedì. E un personaggio che non era un cervello in fuga, nel senso che era un grandissimo cervello, ma aveva avuto conclamazione anche in Italia, per fortuna. Quindi tutto corretto. Tutto corretto. Ma non è il personaggio che avevamo scelto, anche se siamo contentissimi di aver così, sì, potuto ricordare, Annalisa, come tu stessa dici, omaggiare Umberto Eco. Grazie, Annalisa. Va bene, andiamo con Federico da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego Federico, su cosa voleva intervenire? Allora, la butto. Secondo me, per negazione, Maurizio Gasparri, perché sicuramente non è un cervello e sicuramente non ce lo eleva di ritorno per un bel po'. Non è neanche in fuga. Però allora nel caso sarebbe un non cervello, non in fuga, quindi vabbè, e quindi sarebbe, diciamo, in linea con l'indizio, però sarebbe. Ma però ci manca una cosa: qual è la notizia della settimana su Gasparri? Ce l'abbiamo la notizia, Federico? No, ecco, vedi. Beh, di solito si risponde così, preparato. Basta aprire il suo Twitter, una notizia la si trova. Si trova sempre. Comunque non è il personaggio che abbiamo deciso per questa settimana, ma ringraziamo molto che abbia chiamato. Grazie Federico, andiamo con Enrica dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Non intervengo per il personaggio, sì, intervengo perché siete così sensibili al problema delle biciclette e della viabilità che volevo sensibilizzarvi su un problema. Allora, io abito a 300 metri dal confine di Milano, in quel triangolo che è Rozzano, Assago, Milano Fiori. Certo. ecco, un triangolo abbastanza trafficato da autostrade e tangenziali. Esattamente, però siccome siamo fuori dal comune di Milano non abbiamo alcun diritto al servizio di noleggio auto tipo l'Enjoy. Non abbiamo nessuna... Ah, per quella questione, scusa Enrica, per quella questione famosa che per i costi che avevano troppo elevati per trasportare le auto in centro, ve le hanno tolte proprio, cioè non c'è... No, non esiste neanche, certo. Non neanche, nessuno ci ha mai provato, non esiste neanche il servizio del noleggio delle biciclette, non esiste niente. In più la metropolitana, che tra l'altro noi siamo molto più vicini al centro di Milano come chilometro, rispetto a San Donato o Sesto San Giovanni, noi paghiamo il biglietto 2,50 euro. Sì. Il comune di Rozzano ha fatto una battaglia incredibile che poi è fallita per avere 1,50 euro. Cioè non si capisce. Ah, le ciclabili finiscono, finisce il mondo. Cioè, Ma come mai? Ma mi chiedo se c'è un accanimento nei confronti di Rozzano o è semplicemente disorganizzazione? Rozzano, secondo me è disorganizzazione. Rozzano, Assago, forse fa comodo che costi 2,50 euro perché la gente va ai concerti e paga di più. Cioè io mi domando come mai ci possa essere una gestione così pessima. Consideri che io la bici la uso da quando non andava di moda. Certo. Perché in 20 minuti arrivo a Porta Ticinese, arrivo alla Darsena, in 20 minuti. Giusto. La Chiesa Rossa, che è tutta del comune di Milano, non ha una ciclabile. Allora, poi le ciclabili facciamo, a Milano sono facciamo una striscia. Enrica, certo. Facciamo un super appello, visto che ci sono le elezioni a Milano, ci impegniamo noi in prima persona, non so se riusciremo a convocarli tutti i candidati sindaco, ma cominciamo a lanciargliela qua. La mobilità è questione di tutta la città, non solo del centro. Le biciclettine colorate vanno bene, ma non devono servire solo ai turisti, devono servire a chi ci vive in città, ai pendolari. E la app di cui abbiamo appena parlato, WeCity, questa è la buona notizia, Enrica, vale per tutti. Esatto. Senza distinzione di quartiere e di razza. Grazie. Grazie mille. Ci fermiamo per il giornale radio, torniamo subito dopo 800 24 00 24. Cerchiamo anche un personaggio della settimana. È un cervello non in fuga. Non in fuga, oppure non è un cervello in fuga. È lo stesso. Ah, giusto. Ecco perché prima Gaspare. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. Il canguro è uno strumento antidemocratico, squadrista, che zittisce totalmente un dibattito parlamentare, che ha il dovere di esserci. È evidente che ci sono tra questi 5.000 emendamenti presentati dagli altri, dalla Lega, da Forza Italia e dal PD, emendamenti strumentali, sciocchi, stupidi. Quando si ha veramente la volontà di far passare una legge, la legge passa, si lavora 2-3 giorni in più e si porta a casa la legge votando gli emendamenti. Il canguro non c'è più, il canguro si è estinto, non si tocca, no, si è, come no, il canguro che non c'è più. Questo era l'inizio della settimana, stiamo ripercorrendo un po' i fatti, stiamo parlando naturalmente delle unioni civili dopo il primo passaggio tormentato al Senato che è stato realizzato, ottenuto proprio dopo questo accordo che insomma ha visto un cambiamento in che corsa è saltato, della Cirinnà. Ricordiamo secondo me che sì, il fatto di non votare il canguro, almeno personalmente, non è imputabile al Movimento 5 Stelle, che ha tutta la legittimità di decidere di non votarlo. Poi questo non era tecnicamente un vero canguro, era semplicemente un emendamento premissivo che avrebbe fatto saltare gli emendamenti ostruzionistici della Lega, però è assolutamente legittimo decidere di non votarlo. La cosa che ha fatto arrabbiare è la promessa di firmarlo, di votarlo, tanto di essere l'SMS di Airola che è stato pubblicato sull'Unità, quindi sì, diceva noi abbiamo deciso, firmeremo questo canguro, e poi 20 minuti prima, la notte prima attraverso una telefonata, insomma 20 minuti prima direttamente in aula dire invece noi non lo votiamo, e in questo modo tentare di mettere in ginocchio il PD, o forse mettere tecnicamente in ginocchio il PD. Io credo che se il Movimento 5 Stelle è di Battista, se la vuoi votare questa legge, fai, se vuoi che passi, fai di tutto perché passi, credo. Ma evidentemente per il Movimento 5 Stelle la forma è sostanza, questa era la loro argomentazione. In ogni caso, che la forma sia sostanza ci sta. Andiamo avanti. Alfano, che qualcuno dice il vero trionfatore. Beh, Alfano nel nuovo centrodestra, però ha dovuto, intanto ha votato una legge sulle unioni civili, lui era tradizionalmente contrario, però ha tolto la questione dell'adozione del configlio, come direbbe la Crusca, tra poco li sentiremo anche, o della stepchild adoption, insomma si sono spianati tutti i nodi e Alfano è contento, sentiamolo. L'utero in affitto, che noi proponiamo essere reato universale, cioè punito penalmente in Italia anche se commesso all'estero. Vabbè, vogliamo dire un'altra volta, poi smetteremo prima o poi di parlarne, che la questione dell'utero in affitto, che divide, dilania molte coscienze, se ne discute, se ne parla tantissimo da quando si parla della legge sulle unioni civili, non c'entra nulla con le unioni civili, ma c'entra con una cosa che è consentita alle coppie eterosessuali, per esempio, cioè andare in Canada, farsi un figlio con la gestazione per altri e poi tornare e adottarlo anche da parte del genitore non biologico. E questa cosa qua, fatevene una ragione, già esiste. Non lo so, io poi. No, se posso aggiungere una cosa, la reazione di Alfano, se vogliamo, da un certo punto di vista, è normale, non ci si poteva aspettare da Alfano e l'NCD che dicesse siamo riusciti a far passare il matrimonio gay o le unioni civili per gli omosessuali. Ciò non toglie che poi quello che è andato a dire a Bruxelles, ovvero abbiamo fermato una rivoluzione contro natura, noi regaliamo all'Italia l'impedimento ai gay di avere un figlio, mi sembra una vigliaccata di una bassezza. E immagino soprattutto le reazioni dei laici europei che vedono un uomo nel 2016 che parla di contro natura nei confronti dell'omosessualità, che fa veramente ridere. Una pennellata che nemmeno mia nonna credo utilizzerebbe, sono quelle espressioni che usavano proprio i nostri nonni, contro natura, invertito. Sì, nel senso che da un lato è comprensibile che Alfano debba difendere la sua scelta, dall'altro anche questa scelta di togliere la fedeltà da tutta la legge, quasi un po' come a dire gli omosessuali sono promiscui per legge, siamo infedeli per statuto, mi sembra una bassezza e un insulto inutile. Ma poi questa cosa della fedeltà io nemmeno mi ricordavo più che c'era, ma ancora si parla di ma fedeltà. Tua moglie sì che se lo ricordava. Ma va là la fedeltà. Allora sentiamo Airola che è sempre più dottor Jekyll e Mr. Hyde, normalmente è un senatore abbastanza compassato, quasi dal fare pretesco, poi al momento opportuno esplode e questa volta manda proprio a fan tutti i senatori, sentiamo. Avete tolto l'obbligo della fedeltà, quindi avete reso libere le corna. State attenti, perché questo invece sì, questo sì è troppo simile al matrimonio. E poi magari potrebbe risultare incostituzionale, come tutta questa schifezza che state per approvare. Andate a fanculo. Nessuno, ripeto nessuno, si sarebbe aspettato che l'alleato che più urlava fedeltà nei confronti dell'impianto del testo spingesse nel cratere del vulcano un grande momento della storia repubblicana che avrebbe visto partecipi forze parlamentari anche lontanissime tra di loro. E abbiamo chiuso questa carrellata di voce con lei, la relatrice, l'estensora, come si può dire, la Monica Cirinna. Vabbè. Allora, ci fermiamo per il traffico, torniamo tra poco, 800 24 00 24. Voi sapete chiaramente il punto di vista che abbiamo io e Carlo su questa questione, perché se ne parla talmente tanto tempo che non Carlo poi, figuriamoci, ne ha scritto, è diventata anche una sua battaglia personale pubblica, non è la stessa cosa per me, però mi sono espresso anch'io, ma naturalmente noi qualunque punto di vista molto volentieri, purché detto accettiamo anche contro natura, ma sì, se volete, purché ma detto con gli gentilezza insulti. Niente, poi tra poco torniamo, c'è sempre con un personaggio della settimana che andiamo cercando, vogliamo aggiungere un indizio oppure no? Aspetta, no, perché c'è qualche telefonata, bisogna raccogliere. Abbiamo detto che... che è un cervello non in fuga. Tra poco, un altro indizio. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, andiamo con Maria che ci chiama da Milano. Buongiorno e benvenuta, Maria. Buongiorno Alessio. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei intervenire a proposito di piste ciclabili e biciclette. Io chiamo da Milano. Sì. I ciclisti viaggiano tranquillamente sui marciapiedi. È vero. Dove è vero. Non esistono le piste ciclabili, viaggiano sui marciapiedi, rappresentando un pericolo, in particolare per i bambini e per le persone anziane. Sa Maria qual è la questione? È una guerra, tra poveri, Maria. È una guerra tra il ciclista contro il pedone, il pedone contro l'auto, l'auto contro il ciclista. È tutta una guerra tra chi è più povero. In effetti il pedone spesso... Cioè, se ti svegli la mattina non importa che tu sia pedone o ciclista, l'unica cosa che tu sai è che rischi tantissimo. Sì, è questo purtroppo. Va bene, Maria, è vero, i ciclisti vanno sui marciapiedi, non dovrebbero andarci. Oppure diciamo una cosa, Maria, è ancora in linea? Ho parlato con i rappresentanti della polizia. Un attimo, Maria, voglio fare un appello. Voglio fare un appello, Maria, un attimo solo, resti in linea, ascolti. L'appello è questo: ai ciclisti, se proprio non potete fare a meno di andare sui marciapiedi, quelli larghi, andate piano, piano, piano e non tranciate sotto i pedoni, perché è vero, no? No, ascolti, mi hanno frenato addosso una volta con un freno in una costola e avevano ragione loro. Con il freno nella costola. In che senso avevano ragione loro? Pretendevano di aver ragione? Certamente. Ho chiesto a Maria, lei in che zona abita? Lei in che zona abita della città? Ripamonti. La strada è stretta, non esiste pista ciclabile, c'è nella parte più esterna, verso la periferia. Va bene. Maria, allora facciamo così, rinnoviamo l'appello, in particolare Ripamonti, quartiere di Milano, strade strette, ciclisti della zona, non fate cavolare Maria, ha ragione, non gli andate addosso perché non si può fare. E vigili urbani, se vedete un ciclista che va a tutta velocità sul marciapiede, Chiamate Maria o fermatelo. Andiamo con Anna Maria da Como, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuta. Grazie. Prego. No, io ho già detto alla signorina, comunque ripeto. Dica anche a noi, Anna Maria, così lo sappiamo tutti. ho pensato al ragazzino che ha detto petaloso. Come personaggio della settimana. Sì. Che anche l'Accademia della Crusca è intervenuta. Vabbè, la notizia c'è. La notizia c'è, bellissima. Il ragazzino si chiama Matteo. Ha proposto una parola, ovvero petaloso. Ha scritto alla Crusca, alla quale la Crusca ha anche risposto. No, la sua maestra ha scritto alla Crusca. Lui non sapeva nemmeno che esistesse la Crusca. E poi la Crusca le ha detto: bella parola. Valuteremo se inserirla. Però non era lui. Non era lui, anche se la storia è tanto bella che dopo ne parliamo. Sì. Grazie. 800 24 00 24, lo vogliamo aggiungere allora un indizio a questo punto al nostro personaggio della settimana? Vogliamo dire? Vai tu. Allora, è una colonna del Made in Italy il nostro personaggio, cioè non solo non è un cervello in fuga, è un cervello non in fuga, ma è proprio una vera e propria colonna del Made in Italy. Ci viene da ridere perché l'indizio va sempre letto esatto. In mille modi. 800 24 00 24. Abbiamo un altro ascoltatore? Facciamo il 5. Giulio da Firenze. Buongiorno, Giulio. Buongiorno a voi. Buongiorno. Come ho già detto alle sue colleghe al centralino, mi chiamo Paterno Giulio, sono non vedente. Il motivo della mia telefonata è questo. Dunque, io vorrei allacciarmi e naturalmente mi attirerò un po' di gente che mi odi. È il fatto che io non sono vedente e naturalmente, credetemi, per arrivare a camminare autonomamente in città col mio bastone è stata dura, è stata quasi una scalata dall'Everest, perché io improvvisamente sono diventato cieco e mi sono dovuto proprio violentare per conquistare la mia autonomia. Cosa succede? Firenze, credo che il signor Carlo e lei la conoscete bene, è una strada abbastanza piccola, certo. Marciapiedi stretti, eccetera, eccetera. Facciatamente e disonestamente molti ciclisti lasciano biciclette legate ai cancelli, alle inferriate, ai pali della luce, della segnaletica, eccetera, eccetera. Beh, questo mi sembra un appello importante, chiedo scusa, perché siccome ne parliamo spesso di... Appunto, io, guardi, di fronte a cose, le dico sinceramente, io prima di questa situazione, diciamo, tanti anni fa nella mia vita facevo il fattorino, perciò giro la mattina la sera in bicicletta. Pensate che io non amo la bicicletta, amo la bicicletta. Ma odio la maleducazione. Giulio, dove si potrebbero mettere le biciclette per non dare fastidio al non vedente? Mi perdoni, questa è una cosa che ho già dibattuto con Firenze mille volte con l'associazione ciclista. Ce lo dica anche a noi, dove le potremmo mettere? Lo dico subito. Lei, signore, quando lei compra la bicicletta, già in partenza sa di doverla abbandonare sul marciapiede o legata anche una feriata? Mm-hmm. No, ma dove le metterebbe, Giulio? Un momento, la risposta la trova lei. Sì. Io sto dicendo, io so che dal momento che mi compro la bicicletta e di usarla... Giulio ci sta dicendo sicuramente dove non vanno messe dal suo punto di vista, cioè non vanno messe in punti dove intralciano, perché altrimenti un non vedente passando ci inciampa. Sono in realtà perché molto contento. Loro utilizzano il bastone, esatto, per tracciare. Sono contento di questa segnalazione, perché come sempre non ci si pensa. Credo che ognuno di noi ha parcheggiato la bicicletta su un'inferriata, su un palo e difficilmente pensava che stesse facendo un danno a qualcuno. È un po' lo stesso discorso per le carrozzelle. Anche le carrozzelle, quando c'è poco spazio, anche semplicemente mettere il motorino potrebbe impedire a una carrozzella di passare, quindi a qualcuno che è in casa proprio di decidere di non uscire di casa. Quindi l'appello mi sembra importante, perché io stesso spesso non ci si pensa di essere d'intralcio, per esempio, a un non vedente che deve passare. Quindi sono molto contento, facciamoci attenzione. Bene, vai. Persone come lui ce n'è più bisogno sulla terra che nel cielo. Nel cielo ce n'è tante di belle persone, qua ne rimangono sempre poche, quindi quando si perde una persona così è proprio un grande dolore, perché ce n'è più bisogno nella terra che nel cielo. Visto che un'ascoltatrice aveva citato i funerali di Umberto Eco, abbiamo deciso di ascoltare Roberto Benigni. Martedì a Milano, funerali civili per Umberto Eco. Tante persone, i giornali hanno scritto una folla. In realtà io c'ero, non era una vera e propria folla. Forse un po' deludente pensare che una personalità così importante, così acclamata anche, no? Da tutti, non c'era Mattarella, non c'era Renzi. Io ho pensato, ma che c'aveva da fare Mattarella quel giorno lì di più importante? Ha avuto degli impegni istituzionali che neanche ci immaginiamo. Però Mattarella, sono d'accordo con te, quando anche me l'hai raccontato, c'era meno gente di quanto ci si aspettasse. Ogni tanto mi chiedo se anche il fatto che fosse un funerale civile, ma con questa... un funerale laico, come si dice, giusto? Sì. Ma con questa domanda, diciamo, rimaniamo con questa domanda e me lo chiedo. E adesso invece diamo il buongiorno e la buona domenica ad Andrea Segre. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Professore, presidente buongiorno. Della Fondazione Edmund Mach, ma soprattutto noi lo conosciamo come fondatore Last Minute Market, presi la facoltà di agraria a Bologna, tante cose, insomma, Segre. Oggi però l'abbiamo chiamato perché dobbiamo sottolineare un passo, un passaggio, un avanzamento di questo post-expo, di questo progetto che sta prendendo piede. 3 mesi di tempo per trasformare il progetto in un cantiere, alla fine ci dovrebbero lavorare 1500 tra ricercatori e tecnici di tutto il mondo, e parliamo di Human Technopole. A parte, abbiamo già commentato, professore, mai una cosa in italiano, mai una cavolata che si possa dire in italiano, sempre. No, io non sono credibile su questo, avendo inventato il last minute market. Però anche so che anche tu su questo sei abbastanza sensibile, diciamo che da un certo punto di vista si potrebbe fare uno sforzo in più, ma vabbè, lasciamo perdere l'italiano. Abbiamo dopo l'Accademia della Crusca, il presidente con cui passeremo in rassegna, con cui ci piace la domenica a farci correggere qualunque errore. Allora, intanto soddisfazione, perché dopo il primo annuncio c'era stato un po' di incertezza, si va avanti con questo post Expo Woman Technopole? Ah sì, direi proprio di sì. Il Presidente del Consiglio, quando ha fatto la presentazione la scorsa settimana, dopo quella di novembre, era il primo annuncio, mi pare che abbia preso a nome del governo un impegno importante e anche abbia ridato un appuntamento, diciamo, sul cantiere, insomma sul posto, e questo vuol dire che si va avanti. Tappe molto ristrette, anche perché la genesi, diciamo, del progetto è relativamente recente, ma credo che questo sia anche il modo di procedere quando ci sono delle idee forti che poi devono essere messe in campo, non attendendo appunto il 2040, che è la visione Human Technopole, una costruzione per tappe, però deve partire subito. Allora, io cito alcune delle parole che leggo dai giornali, perché non è facile capire, questa è infatti la domanda, di cosa si occuperà questo polo: nutrizione, nanotecnologie, big data analysis, medicina, invecchiamento. Voi avete un ruolo in particolare, adesso ci arriveremo, ed è quello che conosciamo bene, sulla sostenibilità alimentare, produzione e consumo sostenibile di cibo. Però ecco, volendo descrivere con le parole del professor Andrea Segre, che è anche un grande divulgatore, spiegando anche alla portinaia di casa mia, cosa sarà questo polo? Intanto si parte da un dato, anzi direi da due: longevità, aspettativa di vita. In Italia siamo il secondo paese al mondo, 82 anni, un po' di più, però ecco, questa aspettativa di vita così lunga deve permettere una vita buona, e quindi tutto, diciamo, l'ambiente correlato alla nostra vita, a partire da ciò che mangiamo, il cibo, alla salute, all'ambiente, deve trovare una dimensione, diremo oggi, olistica, che guarda avanti e che usa e mette in relazione tutta la ricerca che si fa in Italia ad altissimo livello, ma anche nel mondo. Quindi diventa un polo attrattore su un tema che riguarda l'uomo. Qual è il collegamento con Expo o il dopo Expo, al di là del fatto che si utilizzerà uno spazio di quel sito? E proprio perché si è discusso per 6 mesi, si è visto quanto conta il cibo. Il cibo però è una parte della nostra vita. Ecco, questo non so se la portinaia ha capito, però insomma siamo attorno. Forse ha capito anche olistico, secondo me. La sentiamo più tardi di solito, la portinaia di Alessio, quindi è perfetto. Olistico, ecco, in effetti forse. No, forse però almeno ha il merito di essere una parola italiana, quindi uno ci può arrivare. Sì. Uno ci può arrivare. Professore, mi viene voglia di posso darti del tuo, professor Segre? È un po' come, io ogni tanto lo dico con alcuni dei nostri illustri ospiti che però sentiamo più volte, è un po' come col professore di scuola, quando ti trovavi poi magari dopo lezione al bar o al professore dell'università, superavi quella forma, andavi più sull'informalità e ti veniva voglia di darti un po' del tuo e ci riuscivi. Allora, io resto ancora a scuola, non me la sento, sono troppo ignorante. Comincio io a bere un caffè con Segre. Allora, che ruolo avrà la fondazione, in particolare che tu guidi, la fondazione Edmund Mach, che si occupa appunto di sostenibilità? Ti abbiamo chiesto più volte di aggiornarci, anzi, se hai un aggiornamento sulle iniziative di Last Minute Market e quindi della lotta allo spreco alimentare, che è una cosa, sappiamo, se ne è parlato tanto durante Expo, però voi cercate di fare fatti e un po' meno parole magari. Sì, diciamo, il contrasto allo spreco alimentare passa per un uso, diciamo, più efficiente, più attento, più responsabile delle risorse naturali che abbiamo a disposizione: il suolo, l'acqua, l'energia. E in fondo la Fondazione Mach, Istituto Agrario di San Michele, nasce dalla formazione, da questo storico istituto 1874, che ha formato generazioni di viticoltori, di enologi per l'Italia e per il mondo, e poi pian pianino ha aggregato pezzi, diciamo, diversi, importanti, tra cui anche la ricerca e l'innovazione. È un ente di diritto privato, come poi l'IT, l'Istituto di Tecnologia di Genova, che coordina Human Technopole, ed è l'ente, diciamo, non vigilato dal Ministero, quindi è indipendente e privato, fra virgolette, anche se è una realtà importante della provincia di Trento, che è il primo nella ricerca, nella classifica dell'ANVUR, che è l'Agenzia per la Valutazione della Ricerca, in campo agricolo, alimentare e ambientale. Adesso semplifico così. E quindi tutta quella ricerca che si applica, diciamo, nel termine sostenibilità, anche qui per la portinaia, usiamo al meglio le risorse limitate, le risorse naturali, che sono un capitale che abbiamo. Quindi tutte quelle innovazioni che riguardano, per esempio, la resistenza delle piante, pensate alla vite e dunque al vino, per permettere l'uso di meno, diciamo, fertilizzanti, di meno antiparassitari, in modo da rendere l'ambiente più vivibile. Ecco, siamo in questo campo, quindi c'è un legame, diciamo, fra il contrasto agli sprechi e la ricerca avanzata che ci permette poi di stare meglio. Noi come salute, il cibo impatta sulla salute, come sappiamo per esempio dalla dieta mediterranea, mangiare bene fa bene, ma impatta anche sulla salute, diciamo, dell'ambiente naturale, del mondo. Pensiamo solo al legame che c'è all'attività agricola, la produzione talvolta un po' insostenibile, troppi input, troppi mezzi tecnici, troppi antiparassitari rispetto al riscaldamento climatico, solo per fare un esempio. Ecco, noi siamo qui. Ecco, senti professore, una domanda però te la devo fare, visto che lo hai citato, l'Istituto Italiano di Tecnologia. C'era stata un po' di polemica all'inizio di questa vicenda da parte di qualcuno, perché si diceva: perché coinvolgere un istituto di Genova in una cosa che dovrà essere fatta a Milano? Poi sono state coinvolte anche le istituzioni universitarie milanesi, ma proprio questa settimana, dopo la conferma di Renzi che il progetto Human Technopole va avanti, la senatrice Elena Cattaneo, senatrice a vita, una scienziata italiana importante, ha detto: insomma, va bene questo progetto, però la ricerca italiana langue, non ci sono fondi. E poi invece si sono trovati i fondi per questo, che dovrebbe diventare un grande centro di ricerca. Hai qualcosa da rispondere alla senatrice Cattaneo? Ha sollevato una giusta critica, che era peraltro già stata fatta proprio all'inizio. Beh, com'è che si coinvolge una fondazione di diritto privato fuori dall'area milanese? Io intanto credo che la ricerca non ha frontiere, peraltro il coinvolgimento dei centri di eccellenza dell'area lombarda è stato fatto ed sta andando avanti. La critica è giusta, ma ci sarà una valutazione internazionale del progetto, ed è giusta soprattutto nella parte in cui si dice: non escludiamo il resto, naturalmente. E questo è poi il vero punto, perché questo finanziamento ad hoc, ecco, riguarda una cifra importante, naturalmente ha un'ottica temporale di 10 anni, è un processo che va costruito, occupa tutto sommato una parte piccola di Expo, perché parliamo di 30.000 metri quadrati rispetto all'area che è 1 milione. Ecco, bisogna che non ci si dimentichi di tutto il resto della ricerca pubblica e che non ci si focalizzi soltanto su un unico progetto. Ecco, in questo senso la critica è assolutamente ragionevole. Prima di salutarci, professor Segretti, voglio chiedere un'ultima cosa. Ci fai due pennellate su come sta andando la lotta allo spreco alimentare? Cosa si sta facendo in Italia, nel mondo? Ne parliamo spesso. Ci piacerebbe avere qualche rassicurazione da te, qualche buona notizia. Siamo un po' più bravi in Italia o no? Il margine di miglioramento c'è sempre, e anche da noi, direi, perché gli ultimi dati del nostro osservatorio sullo spreco domestico, cioè quello che sta a casa nostra, che non si può recuperare perché finisce nel bidone della spazzatura, sono abbastanza inquietanti. Se valgono circa 0,5 punto di prodotto interno lordo, qualcosa in più di 8 miliardi di euro. Cioè buttiamo però proprio via nella spazzatura 0,5 punto di prodotto interno lordo. Sì, e credo poi in realtà un po' di più, perché stiamo facendo su una stima quantitativa con dei diari dello spreco, cioè abbiamo preso delle povere famiglie che si sono dette disponibili a far da campione per l'auditel dello spreco alimentare. Sì, esatto, bello. E che stanno misurando proprio quantitativamente, per dirti: il latte che tu lasci poi scadere in frigorifero, te ne avanza un po', ecco, prima che finisca nel lavello viene misurato. Quindi credo che sia di più, sia sottostimato del 50%. C'è ancora molto da fare. Mi auguro che questo testo unico di una legge contro lo spreco, che in questo momento è in Parlamento, possa andare avanti, perché, diciamo, non abbiamo bisogno in particolare di una nuova normativa, c'è già tutto, però mettere assieme i vari pezzi, ecco, un po' come sta facendo Human Technopole, che mette assieme medicina, agricoltura, nutrizione, in una visione, vediamo come potremmo tradurre in inglese, olistica, cioè mette assieme tante funzioni, e così bene, il mondo, diciamo, gira meglio. Ecco, è quello che manca in Italia e che vorremmo fare. Ecco, qui ha capito anche la portinaia, mettere insieme i pezzi e olistico, a questo punto abbiamo capito. Va bene, grazie professore. Grazie a voi. Grazie, buona domenica. Andrea Segre. Allora, questo era il punto sulla vicenda dello Human Technopole. Io dico, ma una cavolata in italiano, ma la vogliamo dire, ma perché... Olistico, ma si poteva dire, per esempio, no, Human Technopole, tradotto era il Politecnico Umano. Senti come suonava bene, non era male, eh? Orca, non lo non so. Era male, secondo me. Certo. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Paolo da Verona, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno Carlo, buongiorno Alessio. Buongiorno. Ciao. Buona domenica. Grazie. Per me, personaggio, cervello non in fuga perché vuole restare dov'è. Corona del Made in Italy, soprattutto nel suo campo, e campo non è una parola a caso, io direi Francesco Totti. Ma bellissimo, hai usato anche tu una, come dire, un significato, una metafora nella tua risposta, un indizio quasi nascosto, il campo. Carlo, di qualcosa tu? Beh, Francesco Totti. È bellissima la spiegazione, perché hai beccato tutto. È quasi uno di quei casi qui. La notizia, immagino che sia il litigio con Spalletti e tutta quella vicenda, quindi è tutto perfetto, tranne il nome del personaggio, che purtroppo non è quello che avevamo deciso. Siamo contenti comunque così di aver ricordato il capitano. Perché in effetti era uno di quei casi in cui quasi la risposta dell'ascoltatore era più adatta, si adattava meglio all'indizio di quello che avevamo pensato noi, perché un cervello non in fuga non era male, perché poteva anche essere vista come non un cervello. Quando sentirai chi ha vinto, secondo me apprezzerai anche i nostri indizi, perché in realtà giocano un po' sullo stesso concetto, anche un po' di gioco di parole. Paola da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccomi qua. Eccola. Io ho pensato a Farinetti, il presidente d'Italy. Era un po' che non si dicevano Oscar Farinetti come personaggio. E siamo sempre contenti perché c'è stato almeno un anno in cui Oscar Farinetti, ogni domenica, qualcuno lo proponeva come... Vero, ma che fine ha fatto Farinetti? Non personaggio non fa più della conferenze settimana. Bibliche. C'era una notizia di questa settimana su Farinetti? No, io penso mi sono sbagliata perché ho sentito... L'indizio. Colonna del Made in Italy, colonna del Made in Italy, che si può scrivere in tanti modi. Brava, anche questo era un indizio nascosto. Però, cara Paola, non era proprio questo l'indizio a cui pensavamo noi. Infatti, non era Farinetti il personaggio, anche perché non c'era una notizia, almeno chi lo sa, c'è sempre una notizia su Farinetti, basta andare in un Italy. È un'altra la colonna del Made in Italy che andiamo cercando. Andiamo con Lillo che chiama da Ostia. Sì. Eccolo Lillo, buongiorno. Mi posso dare del voi? Come? Mi sentite? Vi posso dare del voi? Del certo. Voi? Simpatici, giganti. Sì. Allora io ho pensato al presidente della regione Puglia, Emiliano, ha avuto quel figliolo e se l'ha riportato in Italia. Allora un attimo Lillo, il presidente della regione Puglia, l'ex, stiamo parlando di Nicky Vendola. Quello che ha fatto il figlio là. Quello che ha fatto il figlio è Nicky Vendola, non è Emiliano. Emiliano. C'è stato un attimo di sbaglio, una confusione di sbaglio, perché c'è un po' d'età, capito? Vabbè, non si preoccupi. Però avevamo capito. Aspetta, che voglio dire un'altra cosa, perché io Picchia Lillo. Vabbè, poteva essere sembrava una telefonata... uno scherzo, voglio dire un'altra cosa, perché io e ci ha attaccato il peccato telefono, invece perché caduta, si stava è regalando un po' di simpatia Lillo e anche un po' di confusione di nomi, ma non importa. Va bene. Non è lui il personaggio, lo possiamo dire così, perlomeno se ci sta ascoltando non va in ansia dicendo oddio avrò vinto, non avrò vinto. Al momento non ha vinto perché non era questo il personaggio della settimana. Federico da Torino, buongiorno. Oh, buongiorno a voi. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire Federico? Ma no, io volevo solo intervenire, è stato fatto solo a apertura di trasmissione un riferimento nuovamente al canguro. Praticamente, ripeto, si è dato un attimo nuovamente responsabilità al 5 Stelle e compagnia varia. Allora, io apprezzo moltissimo la vostra equidistanza da tutti, però ripeto, la ricostruzione è molto, molto, molto parziale. Cioè, io dico, più che triturare sempre i marroni a questi 5 Stelle... Ma no, ma guarda, scusa, Federico, non stiamo triturando i marroni ai 5 Stelle. Parlano due minuti e poi mi fermo e cosa. Si pensi un attimo a quelli che sono i dissidenti all'interno del PD o ai nuovi associati, alleati, che sono i Verdini, che sono gli Alfano, prima o poi ci sarà anche un Silvio, un secondo Matteo e compagnia varia. Un Silvio, un Matteo. Sì, abbiamo sentito. Esatto. Perché, ripeto, io vi adoro, perché vi ho seguito da sempre, eccetera, però certe volte incomincio... Federico, scusami, ti dico una cosa. Hai già finito, Federico, l'hai già avuta la possibilità. Dico una cosa io, ti faccio anche abbassare l'audio, perché sennò gli ascoltatori pensano cose. Se tu vuoi dire che noi parliamo male del Movimento 5 Stelle, può darsi che qualcuno abbia detto delle cose, delle sue idee personali, noi o degli ospiti, ma siccome questo programma si chiama Si Può Fare, ci piacciono le buone notizie. Sai quante volte abbiamo chiamato il Movimento 5 Stelle a raccontare la restituzione dello stipendio, le iniziative quando ci sono state le alluvioni, che con lo stipendio hanno fatto delle cose, quando hanno tolto la pubblicità sul canale della RAI per i bambini, eccetera, eccetera. Ma mille volte, quindi questo, Federico, non lo puoi dire. Sulla questione delle unioni civili, poi ognuno ha le idee che vuole. Federico, ci sei ancora? Secondi, dammi 10 secondi. Dammi sì, però 10 veramente. 10 secondi. Sì. Voi interpellate i 5 Stelle, però se vi riascoltate, voi fate domande ai vicepresidenti, ai segretari, ai sottosegretari, ascoltate con religiosa attenzione quello che rispondono. Quando parlano i 5 Stelle, li bloccate e non solo, ma alla fine gli dite ancora che comunque sia non hanno risposto. Hai sbagliato programma, carino. Federico, ma grazie, buona domenica, grazie. Hai sbagliato programma, secondo me, perché non siamo noi quelli che facciamo domande così, come dire, pregiudiziali. Cosa voleva dire? Che stiamo lì addosso a 5 Stelle per farli? Non è questo. Mi interessava capire la questione su siccome la conosco molto bene, quella sulle unioni civili, e non è una questione di dare contro o meno ai 5 Stelle, è la questione dell'affidabilità che è stato il problema, perché siamo tutti probabilmente scontenti del fatto che abbiano votato anche Verdini e sia passata con la fiducia, una questione di diritti, speravamo tutti che invece passasse con il 5 Stelle, però i 5 Stelle all'ultimo hanno detto di no, poi dopo hanno detto però noi avremmo votato la legge, e quelli del PD non si sono fidati, non lo so se abbiamo fatto bene o meno, ma non si sono fidati, e onestamente fidarsi era difficile in quel momento. Oh, ascoltatori, abbiamo ancora un quarto d'ora, 10 minuti circa, per indovinare anche il personaggio della settimana. Ripetiamo gli indizi: non è un cervello in fuga ed è una colonna del Made in Italy. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Che l'Accademia della Crusca, dopo una lunga discussione tra i propri grandi esperti, ha ritenuto essere una parola che deve entrare nel vocabolario italiano. E la parola petaloso è entrata dentro il grande vocabolario della lingua italiana, coniata da un bambino di 8 anni. Beh, questo progetto è un progetto petaloso. Ci siamo, è il momento di petaloso. Ma non è così. È il momento. La parola non è entrata nel dizionario, la Crusca è stata precisissima. La cosa straordinaria della Crusca è proprio questo, che allora, ha risposto dicendo: se entra nel linguaggio comune, allora magari un giorno entrerà la parola nel dizionario. Ma facciamolo dire al presidente dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, la vicenda del petaloso, com'è andata? Ma dunque, è andata. E diciamo che la cosa stupefacente è stata questa enorme ricaduta mediatica, che francamente era inimmaginabile, perché la lettera del bambino ha ricevuto una risposta normale, perché non è infrequente. Esatto, immagino che tanti altri abbiano mandato. Esattamente, e naturalmente l'Accademia, nei limiti del possibile, cerca di rispondere, e la risposta è stata data da una delle nostre giovani, che esperte, insomma, che lavorano nell'ufficio consulenza, ed è una lettera molto bella, e in parte è pubblicata in rete, la si può leggere, no? L'abbiamo letta tutti. Ecco, avete visto che dice in sostanza la parola che tu hai usato è ben costruita, potrebbe essere italiana, naturalmente non è né l'Accademia della Crusca, né un bambino, né il Presidente del Consiglio, né il Presidente della Repubblica che può introdurre d'autorità le parole nell'italiano. La lingua di chi è? La lingua dei parlanti, quindi soltanto se la parola verrà usata, se avrà fortuna, potrà entrare davvero nel vocabolario. Quindi in sostanza l'introduzione nel vocabolario è una, avviene a posteriori, soltanto certo, col senno di poi si può dire se la parola ha avuto successo o no. È che questo giustamente per lei è cosa risaputa. Noi l'abbiamo un po' scoperta e secondo me la risposta è stupefacente. Giustamente immagino che molti altri abbiano scritto proponendo delle parole, però è molto bello sentirselo dire con questa precisione, ovvero non è che la Crusca si sveglia la mattina, si mette lì e inventa tutte le nuove parole, ma finché la parola non è di uso comune non può entrare nel dizionario. Io l'ho apprezzato moltissimo, forse perché l'abbiamo sentito lei la domenica appena prima, e quindi per vicinanza. Poi, anche la risposta è stata anche capita, perché in rete addirittura, quando hanno letto questa risposta, si sono creati dei movimenti che dicevano: allora usiamo questa parola, esatto, così riusciremo a fare il vocabolario. È divertentissimo, perché e di solito questo processo non dovrebbe essere, di solito non è storicamente artificiale, non è indotto. Ecco, però qua c'era anche un po' di induzione, c'era un po' di voglia di sostenere questo bambino, la sua idea. Noi ci siamo anche chiesti appunto come mai. Probabilmente io direi che segna anche un bisogno di sorriso e di serenità attorno ai temi della lingua, certo, così come attorno ad altri temi, perché di solito parliamo di lingua per cacciare via le parole, abbiamo discusso degli anglicismi, delle troppe parole inglesi, quindi siamo sempre, come dire, a muso duro a difendere. Invece in questo caso era un atteggiamento sereno, un momento piacevole. Forse per questo ha incontrato un simile consenso. Ecco, veniamo a qualche cosa di meno piacevole, però, perché io le voglio chiedere anche, dunque, stepchild adoption l'avevamo affrontato l'altra volta e lei ci aveva detto che eravate di fronte a, se non ricordo male, a due possibilità: adozione del figlio del partner o adozione del configlio. Avete deliberato? Sì, è uscito. E del configlio? Stampa. No, dunque, abbiamo detto, no, ormai c'era già un consenso collettivo attorno all'adozione del figlio del partner. Poi, dato che Francesco Sabatini è autorevolissimo e presidente onorario dell'Accademia della Crusca, abbiamo riconosciuto che configlio è una parola con tutte le, è come petaloso, ha tutte le carte in regola. Quindi configlio e petaloso da adesso in poi che devono camminare sulle loro gambe, se arrivano arrivano, se no niente. Sì. Però... anche se naturalmente Sabatini proprio ieri sera mi scrive e dice: ma le parole poi per entrare davvero nella lingua devono coprire uno spazio di cui ci sia bisogno. Quindi per esempio, perché una parola come ditoso non certo, è mai esistita? Non è mai esistita perché nessuno ha sentito il bisogno di indicare quella qualità. No? C'è una cosa carina da dire, che non ha scritto nessuno, ve l'anticipo proprio per la vostra trasmissione. Bravo, in realtà, petaloso, non in italiano, ma in latino, è stato usato nel 1695 da un celebre botanico inglese. Ha scritto un libro di classificazione botanica, è una figura curiosa perché riceveva nella sua bottega di farmacista a Londra. Sto prendendo appunti, eh? Vada. Sì, si chiamava Petiver questo qua. Riceveva campioni di piante che arrivavano dall'India, eccetera. E proprio per una di queste piante esotiche, lui scrisse Flore petaloso, melisse, foglie, flore petaloso. Vedi, straordinario. C'era un antesignano. Il bambino credo che assolutamente non lo sapesse, non immagino, certo, che il piccolo Matteo sì, abbia... Però aveva ragionato anche lui un po' allo stesso modo. Però vole... evidentemente è un meccanismo, questo è per il latino, la parola latina non italiana, no? Però evidentemente il meccanismo produttivo delle parole in latine non è così dissimile a quello dell'italiano, che è una lingua che viene dal latino, no? Certo, ma le volevo, quindi... le volevo sì. chiedere una cosa, nel senso che una cosa che ci siamo chiesti tutti in questo giorno in cui Petaloso è stato trending topic, come si dice, su Twitter, quindi era in testa all'uso, è la parola che è stata più usata come hashtag per un certo periodo. Quanto vale questo? Nel senso, se la parola Petaloso dovesse rimanere trending topic per 5 giorni, entra nel dizionario? Non lo so. Beh, no. Ma sicuramente se resta trending topic per un anno, credo che sarete costretti, anche semplicemente per liberarcene da un certo punto di vista. Ma in qualche modo la vicenda è così straordinaria che entra già negli annali della storia linguistica, cioè che dura o no questa parola, si dovrà dire, può darsi che sia la parola che è durata un giorno, no? Certo. Però già è più di un giorno, cioè anch'io sono molto curioso di vedere se va avanti, vediamo. No, perché i più terrorizzati hanno detto, ma adesso quindi passerà anche a pericena, che molti su Twitter lo usano, cioè passeranno anche delle parole... È vecchio come il cucco, poi non è, ho sentito qualcuno che si arrabbia molto... Dice che è una parola bruttissima, dice, ma in fondo è un composto, cioè non è, aperitivo e cena sono due parole italiane, cioè, l'italiano non ha una forte tendenza ai composti a differenza del tedesco, di altre lingue. Però non è una bestemmia. Quindi apericena si può dire. Apericena si può dire. Senta, però, Presidente, le devo lasciare con una sollecitazione, perché allora abbiamo chiarito, grazie a lei, Step Child Adoption, Smart Working come lavoro agile, l'altra volta ci aveva detto bail-in, usate salvataggio interno. Sì, adesso la prego di riflettere su Human Technopole, il nome scelto per questo polo, che secondo me sarebbe possibile usare Politecnico Umano. Non dico in sostituzione, ma in aggiunta, no? Per tradurlo piano piano, vediamo se riusciamo a utilizzare l'italiano. Intanto grazie al presidente della Crusca Marazzini, buona domenica. Grazie mille. A prestissimo. Allora, dobbiamo chiudere. Maurizio da Como, in 30 secondi per dare la risposta e spero anche indovinare il personaggio della settimana. Maurizio. Ennio Morricone? Basta. Siamo andati per le spicce perché in effetti era la risposta giusta, quindi avevamo l'applauso, esatto, pronto. E il gioco di cui parlavamo prima è il fatto colonna, in quanto anche colonna sonora del Made in Italy, perché insomma ha avuto questo riconoscimento, è stato inserito nella Hall of Fame. Benissimo, grazie Maurizio. A voi, grazie a voi. Grazie mille. Dobbiamo chiudere, quindi ringraziamo Andrea Piana, come sempre, Claudia Schiattone, Lorenzo Nespoli, Peter Bescapè oggi in regia. Noi ci risentiamo sabato prossimo, 7:30-10. Sì, signori. Buona giornata, buona domenica da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, anche a chi ci ascolta in podcast. Bye.